Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, è ritornata in onda 451 Intersezioni, ovviamente una buona nottata da Elisio Scarpa che condurrà la puntata di stasera. Giovedì scorso siamo mancati, alle volte succede, non datecene una colpa, capita, d'altronde siamo itineranti sia dal punto di vista radiofonico che dal punto di vista esistenziale, spesso ci si intoppa incontro o contro qualche ostacolo, ma in ogni caso ritorniamo stasera a 451 Intersezioni. Ricordo sempre il nostro blog No Blog, che racchiude non solo lo spazio radiofonico su Radio Città Fujiko di 451 Intersezioni, che va in onda sempre ogni giovedì da mezzanotte circa fino a 1:30 circa, ma anche lo spazio di 451 Frammenti Sonori, condotta da compagno amico Max Macchia, che anche ieri è andato in onda, dunque sempre il mercoledì invece dalle ore 23 all'una circa. E all'interno del nostro blog No Blog troverete entrambe le due trasmissioni con tutte le programmazioni passate, le nostre playlist, e potrete ascoltarle e anche scaricarle tranquillamente, essendo tutto gratuito: informazioni, autori, album, qualche chicca, qualche video, qualche cosa in più che quando riusciamo inseriamo all'interno del nostro blog, che è sempre 451 frammenti sonori.noblogs.org. Ringrazio sempre anche Lorenzo Albano che cura tutta la parte tecnica e diciamo digitale del nostro blog No Blog, e anche ci potrete trovare su Facebook 451 frammenti sonori, anche se io personalmente nei confronti dei social network ho moltissime perplessità, pur avendo, perché non mi ritraggo da questa cosa, una mia pagina, pur avendo noi stessi come radio una pagina Facebook. È una critica più complessiva e più pregnante nei confronti di questo strumento di pseudo socializzazione, ma apriremo un capitolo abbastanza complicato all'interno della puntata di stasera. Stasera purtroppo piangiamo una morte di un grandissimo musicista, di un grandissimo autore che ha segnato la storia del pop e non solo, degli anni 80 e oltre, e parliamo di Prince, che se n'è andato. E dunque questa è una notizia che mi è arrivata oggi stesso, una brutta notizia. Noi stasera abbiamo costruito una trasmissione dedicata a un grande della musica minimalista, ma sicuramente credo sia io che Max all'interno di 451 frammenti sonori in futuro prepareremo qualcosa in ricordo di questo grande musicista come Prince. Noi invece stasera avevamo già programmato, faccio sempre il plurale perché la penso sempre appunto come progetto collettivo, pur essendo io e Max separati in casa all'interno dello stesso progetto radiofonico, abbiamo due spazi radiofonici differenti a livello proprio fisico, a livello temporale. E puntata dedicata a Steve Reich. Steve Reich ha attraversato tantissime volte 451 frammenti sonori nel passato, quando ancora non eravamo qui a Radio Città Fujiko, è anche passato attraverso Radio Città Fujiko all'interno dei nostri due spazi 451 Intersezioni, 451 frammenti sonori, ma non abbiamo mai pensato a una puntata intera dedicata a questo autore che ha prodotto tantissimi album importanti. Stasera appunto l'idea è quella di omaggiarlo, e il titolo della puntata è Tracce di Steve Reich, perché chiaramente riuscire a riportare in radio l'opera immensa di Steve Reich ci vorrebbero credo almeno 10 trasmissioni tutte dedicate a lui, ma appunto la chiamiamo Tracce di Steve Reich, e con un sottotitolo connesso proprio al suo modo di costruire a livello compositivo il linguaggio minimalista, cioè il minimalismo circolare, perché una delle cose che maggiormente aveva colpito nei primi studi, nelle prime sperimentazioni, parliamo degli anni 60, dallo stesso Steve Reich, è le tecniche percussive e lo studio della ipnoticità, della circolarità delle musiche africane, in particolare proprio delle tribù degli Ewe in Ghana, dove lui

The E siamo ritornati in diretta. Abbiamo avuto questo piccolo buco che purtroppo alle volte può accadere a livello tecnico, un piccolo silenzio che non era, diciamo, previsto, ma forse va anche bene per rompere questa circolarità costruita da Steve Reich, che forse qualcuno l'avrà notata a livello proprio musicale, a livello ritmico, quanto poi questa traccia registrata su nastro magnetico viene manipolata anche in maniera, diciamo, rudimentale rispetto alla strumentazione tecnologica che ora negli anni 10 abbiamo a disposizione. Parliamo ormai veramente di tantissimi anni fa, 50 anni fa. La sperimentazione in questo senso più analogica, attraverso appunto la manipolazione del nastro magnetico di It's Gonna Rain, uscita appunto quest'opera nel 1965, dà l'idea della grande genialità di Steve Reich, che attraverso appunto la manipolazione di questo frammento, poi utilizzando anche effetti e costruzioni quasi ad eco, a riverbero, a costruire sovrapposizioni melodiche, armoniche e ritmiche, costruisce appunto una ciclicità e anche una ritmicità che in alcuni momenti può anche ricordare un tempo quasi da dance, da elettronica dance. In un certo momento il brano prende proprio una ritmicità quasi techno, e in questo senso moltissimi musicisti, non solo nella dance chiaramente, ma moltissimo nell'ambito della sperimentazione elettronica nei decenni a venire, soprattutto negli anni 90, anni 0, hanno recuperato molto di quella parte minimalista. Non a caso poi sono nate correnti post-minimaliste, l'elettronica minimalista costruita su questa idea, su questo linguaggio compositivo e anche sonoro costruito dai minimalisti, e in particolar modo, dato che ne parliamo stasera, affrontiamo stasera il tema del personaggio e della composizione, della storia compositiva del grande Steve Reich. E sempre per rimanere in tema di manipolazione di nastro magnetico, passiamo al 66, un anno dopo, la stessa cosa la ritroviamo nell'altra opera che adesso andremo a sentire, cioè Come Out. Anche qua lavora nella stessa maniera, in una maniera similare, utilizzando una parte vocale che viene poi manipolata e resa ciclica, frammentata, sempre utilizzando il nastro magnetico. E dunque ascoltiamo ancora Steve Reich in questa accezione attraverso il lavoro Come Out. I had to, like, open the bruise up and let some of the bruise blood come out to show them. I had to, like, open the bruise up and let some of the bruise blood come out to show them. Come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, Show some Thank you. Incredibile veramente questo lavoro di Steve Reich, Come Out 1966, si è sentita la materia sonora completamente trasformata nel corso di questi 13 minuti di brano, di opera. Si parte appunto con la manipolazione di questa frase, di questa parte cantata o comunque vocalizzata, che poi viene sempre più manipolata per poi arrivare nella parte proprio finale dell'opera stessa, trasformata in un suono completamente diverso dalla parte originaria. Il lavoro è anche questo, quello soprattutto del periodo di manipolazione con nastro magnetico, diciamo, di approccio elettronico e meno legato poi alla costruzione compositiva, soprattutto per archi o per altri strumenti. Qua c'è proprio una concezione, anche una concentrazione da parte di Steve Reich nella manipolazione sonora, in questo caso sul nastro magnetico, ma potrebbe essere tranquillamente trasportata in una sorta di sampler o di sampling legata ad esempio agli anni 0, agli anni 10, dunque la manipolazione di campioni sonori o la trattazione di un suono, di un frammento manipolato e effettato per costruire qualcos'altro in una trasformazione radicale appunto del suono di origine. In questo è abbastanza anche interessante e inquietante per certi versi sentire questi due brani 65 e 66 che abbiamo ascoltato fino ad ora, aprendo con It's Gonna Rain e poi con Come Out, che cosa si è riuscito a creare Steve Reich, soprattutto in quest'ultimo brano, in quest'ultima opera, dove nella parte finale sembrava quasi sentire un suono pre-musica industriale, con appunto l'attenzione a una sonorità per certi versi anche lo-fi, ma anche molto spigolosa, dura, con un suono sicuramente industrial in questo senso, e in questa accezione sorprende molto per quelli che pensano che la musica contemporanea sia qualcosa ancora molto legata all'aspetto accademico, alla strumentazione. In realtà la contemporanea, in particolare la musica anche minimalista, ma non solo, anche molta contemporanea, soprattutto legata alle sperimentazioni elettroniche, anche proprio ai primordi delle prime tecnologie. Abbiamo tanti anni fa fatto una trasmissione legata proprio alle sperimentazioni, addirittura che risalgono agli anni 30, anni 40, dove la tecnologia era veramente primordiale, cosa molti autori nell'ambito della musica contemporanea, della musica elettronica contemporanea, si fossero riusciti a costruire a livello di suono. E qua Steve Reich è concentratissimo proprio sull'aspetto sonoro, e l'aspetto sonoro lo ritroviamo molto anche nell'opera che adesso andremo ad ascoltare. Passano 4 anni, entriamo dentro a una idea di Steve Reich più legata in questo caso allo strumento, e in particolar modo a uno strumento specifico che è l'organo, l'organo elettrico, e Steve Reich compone questa opera splendida che è Four Organs, una composizione per 4 organi elettrici e una maracas, che dà praticamente la ritmicità, il tempo a questa composizione. Una composizione geniale, costruita su una sequenza armonica e melodica fissa, dunque un percorso fisso di questi 4 organi che si intersecano, ma la genialità è quella di spostare e di modificare sia gli spazi e dunque diciamo le pause tra un organo e l'altro, e anche nella stessa sequenza dell'organo stesso, nelle pause tra una armonia, una nota e l'altra, ma soprattutto la particolarità di incrementare la durata, il sostegno, così si dice, della nota stessa, un incrementamento che avviene praticamente di un singolo ottavo di nota, per poi spostarsi in 200 battute fino alla fine. Dunque un lavoro che sposta sempre di più, e la percezione sonora, la percezione dell'ascoltatore, se si fa appunto immergere, se si addentra dentro questo flusso circolare ipnotico di Reich, riesce proprio a percepirlo, questi micro spostamenti, questi micro cambiamenti che modificano anche la struttura stessa della composizione, creando appunto questa circolarità e questa modificazione nello stesso tempo della materia sonora. Ma forse le parole non bastano a spiegare il suono, come molte volte accade. Andiamoci a calare dentro questa splendida opera Four Organs 1970, che tra parentesi, ultimo inciso, è stata per la prima volta presentata in live sempre nel 1970, nel maggio, al Guggenheim Museum di New York. È stata la prima proprio in assoluto di questa opera che è stata portata al Guggenheim dallo stesso Steve Reich e i suoi musicisti. Buon ascolto con Four Organs. in sottofondo abbiamo inserito chiaramente ancora Steve Reich, che ci accompagna per tutta la puntata dopo aver ascoltato interamente lo sviluppo per 200 variazioni di Four Organs 1970. Adesso abbiamo in sottofondo l'altra brano splendido, l'altra opera splendida del 1967, Piano Phase, e ovviamente abbiamo dovuto selezionare, perché già la puntata si sta avviando verso l'una, abbiamo ancora molta carne al fuoco e andiamo subito a immergerci nel prossimo anno successivo, proprio al 70, 1971, l'opera Drumming. In questo caso troviamo alle percussioni in quest'opera Art Murphy, Steve Chambers e lo stesso Steve Reich, poi al Glockenspiel Ben Arms, Gary Book e James Price, alle marimba Frank Mevinsky, James Ogden e Russ Artenberger, e al flauto piccolo John Gibson, che poi insomma conosciamo anche perché lo stesso Gibson poi ha portato avanti il suo percorso personale nell'ambito del minimalismo, e poi troviamo anche alle voci Jay Clayton, Joan La Barbara e Judy Sherman, insomma nomi anche belli importanti nella stessa, diciamo, formazione, nello stesso progetto costruito e realizzato e composto da Steve Reich. Anche qua il tema è legato, ovviamente, la parola stessa lo dice, drumming, all'aspetto percussivo e ritmico, un'altra, diciamo, voce, un'altra dimensione del minimalismo circolare di Steve Reich. Caliamoci subito dentro in Drumming 1971.